Il gigante di zucca. Alcuni contenuti di questo video potrebbero non essere adatti a bambini di età inferiore ai 13 anni. C'era una volta, quando le favole di cui parliamo esistevano davvero nel mondo, il regno di Colossia. Ad est del regno viveva il gigante di zucca. Il gigante di zucca era il più grande e famigerato gigante mai esistito. La gente non conosceva molti frutti e verdure e le patate erano il loro alimento base. Sebbene gustose, i carboidrati contenuti nelle patate e la mancanza di esercizio fisico resero la popolazione obesa. Questa divenne un'opportunità d'oro per il gigante di zucca, che vegliava sui bambini obesi e li catturava e li rendeva suoi servi. Dai, entra! Non vuoi che il gigante di zucca ti prenda, vero? Arrivo, papà! Questo riempiva di paura tutti quanti a Colossia, soprattutto il re Rainer, che aveva una figlia di nome Diana che, come gli altri bambini di Colossia, era obesa. La principessa dovrà sempre avere due maghi intorno a lei per proteggerla in ogni momento. E mandate un messaggio al popolo che chiunque sconfiggerà il gigante di zucca riceverà l'onore di diventare mio cavaliere. Sì, signore. Alla principessa non era mai permesso di lasciare il palazzo ed era sempre seguita da due maghi guardiani. Nel frattempo, il messaggio venne trasmesso al popolo e tutti furono eccitati all'idea di divenire cavalieri. Ma non importava quanto fossero desiderosi o vogliosi, non potevano nemmeno tenere un bastone dritto se solo pensavano al gigante. Ad est del regno viveva un povero contadino, Patroclo, con sua moglie Dafne e il loro figlio Enea. Possedevano una grande terra vicina alla tana sotterranea del gigante di zucca, dove coltivavano patate. Anche Enea, come la principessa, era piuttosto obeso. La povera famiglia spendeva la maggior parte del proprio denaro per soddisfare il suo grande appetito e non aveva molto cibo per sé. Amore mio, come dobbiamo fare con i soldi? Non ti preoccupare, mia cara, troverò un modo. Un giorno, mentre Patroclo ed Enea erano fuori al campo a raccogliere patate, la terra tremò fortissimo davanti a loro. Oh cielo! È il gigante di zucca! Corri! No, padre! Non posso! Sono troppo stanco! Oh, figlio mio! Allora mettiti dietro di me, presto! Enea andò e si accovacciò dietro suo padre, ma fu inutile, perché era come se si fosse nascosto dietro ad un palo sottile. La terra tremava ad ogni passo che il gigante di zucca faceva, mentre si avvicinava sempre di più al povero e a suo figlio. Cosa facciamo adesso? Preoccupato e spaventato, Patroclo si guardò intorno mentre il gigante di zucca si avvicinava a loro. Raccolse una patata e la lanciò contro il gigante di zucca. La patata volò nella bocca del gigante mentre si avvicinava. Mi dispiace, non posso correre, padre. Va bene, figlio. Ti voglio bene. Proprio in quel momento, il gigante cadde davanti a loro con un tonfo gigantesco. Non sapevano che le patate erano come una pozione magica per i giganti, che li facevano cadere in un eterno sonno. Che cosa? È un miracolo! Gli angeli ci hanno benedetti! Dafne corse fuori in fretta e vedendo che suo marito e suo figlio stavano bene, li abbracciò. Oh, sono così felice che siete al sicuro! Ma cosa facciamo di questo gigante nella nostra fattoria? Proprio mentre lo diceva, il gigante di zucca scoppiò in una nuvola di polvere scintillante, lasciando dietro di sé solo un mucchio di semi che erano sparsi nel campo quando il gigante era crollato. Il regno si rallegrò della meravigliosa notizia e tutti ne furono felici, soprattutto Re Rainer. È fantastico! Mia cara Diana, non hai più bisogno dei maghi che ti circondano e ora sei libera di andare in giro per il regno. In mezzo a tutta la sua felicità ed eccitazione, il re si dimenticò di nominare cavaliere il povero contadino, che ne fu piuttosto ferito, e così anche Dafne. Tuttavia, ad Enea non importava molto. Dopo il terribile incontro con il gigante di zucca, Enea decise che avrebbe iniziato a tenersi più in forma, a mangiare cibi sani come frutta e verdura, uova in numero adeguato e di evitare il cibo spazzatura. Cominciò ad esercitarsi regolarmente e dopo alcuni mesi, quando arrivò la primavera, era diventato più in forma e aveva ridotto il suo peso. Un giorno, mentre Enea si esercitava nel campo delle patate, notò che qualcosa stava crescendo nel campo. Padre, sembra strano. Ci sono erbe che crescono ovunque. Sì, mi chiedo cosa sia. Devono essere alcune piante selvatiche, eh? Lascia fare. Ignorarono le erbe e andarono avanti con la giornata. La mattina dopo, quando uscirono nel campo, videro che era coperto di teste di zucca giganti. Oh no! Un gigante di zucca è stato un male per noi, ma ora c'è un intero esercito! Vedere i campi di patate pieni di quelle che sembravano teste giganti suscitò una gran paura nei cuori della gente di Colossia, ma la mancanza di facce e movimenti spaventosi mise le persone a proprio agio col tempo. Anche se Enea aveva smesso di mangiare in modo non sano, non poteva resistere alla sua abitudine di infanzia di dover assaggiare qualsiasi cosa. E si chiese che sapore avrebbe avuto un po' di zucca. Sono così tentato di assaggiare la zucca! Più tardi quel giorno, quando suo padre era uscito per un po' di lavoro, Enea uscì nel campo e tagliò una fetta di zucca e ne prese un boccone. Oh, è così buono! Prese boccone dopo boccone e presto divorò un'intera zucca. Era deliziosa! Devo andare a dire a mamma di provarla. Madre, ho mangiato un po' di testa di zucca ed era buonissima. Dovresti provarla. Cosa? Sai che non è bene mangiare cose strane? Potresti ammalarti? Lo so, mamma, ma non ho potuto farne a meno. Oh, figlio mio, come hai potuto farlo? E se ti succedesse qualcosa? Non ti preoccupare, mi sento bene. Quella sera, quando Patroclo tornò a casa, fu scioccato nel venire a sapere dell'incidente. Oh, padre, non essere turbato. Sto bene. E dovresti provarla anche tu. Sono assolutamente deliziose. Patroclo ci pensò per alcuni istanti. E poiché le teste di zucca erano spuntate al posto delle patate, erano estremamente affamati e decisero di provarla. Proprio allora Daphne disse: potrei metterla in un po' d'acqua e farla cuocere. Meraviglioso! Si sedettero e mangiarono la zucca stufata. E mentre prendevano il primo morso, i loro volti si illuminarono. È così buona! Non mi aspettavo che fosse così deliziosa! Nei giorni seguenti, Daphne decise di usare la sua creatività e mescolò alcuni ingredienti con la zucca, come latte, uova, zucchero e spezie, e le mise in una teglia con della pasta sfoglia, e poi le mise in forno a cuocere. Non avevano mai assaggiato niente di così squisito in vita loro. Ne furono tutti felicissimi. Raccolsero le altre teste di zucca e le misero nella cantina. E Daphne preparava deliziose torte di zucca ogni giorno, che mangiavano felicemente. Un giorno, mentre il re passava accanto alla casa del contadino, sentì l'odore meraviglioso delle torte di zucca e fece fermare immediatamente la carrozza. Vai e scopri cos'è questo profumo. È davvero straordinario. Quando tornò indietro disse: la moglie del contadino sta cuocendo le teste di giganti. Che cosa? Portamene una adesso. Il paggio andò a prendere una delle torte e dopo averla assaggiata attese qualche minuto. Il re era ansioso di assaggiare la torta e prese un boccone e immediatamente rimase incantato. Questo è meraviglioso! Chiama il contadino e la sua famiglia! Patroclo venne portato dal re insieme a sua moglie e suo figlio, che erano piuttosto nervosi. La torta è fantastica! Ti ricompenserò e ti farò cavaliere! Ma prima dimmi come hai fatto queste meravigliose torte! Patroclo disse tutto al re, di come avevano ottenuto le teste dei giganti e di come avevano fatto le torte. Oh, uomo nobile e coraggioso! Mi ero dimenticato di farti cavaliere! Il re nominò cavaliere il contadino, che ne era felicissimo. Patroclo, Dafne ed Enea divennero importanti parti dell'assemblea reale. Enea spiegò al re la sua dieta, che non consisteva solamente di patate, ma anche di molta frutta e verdura equilibrata e sana. Presto il re annunciò a tutti nel regno di seguire una dieta sana ed equilibrata, compresa la propria figlia. E in breve tempo il tasso di obesità diminuì. La gente divenne più sportiva e il regno di Colossa divenne presto noto come il più sano al mondo.